ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Gli avevo detto qui sono morto e a un certo punto l'albero è caduto, si è fermato l'albero, mi sono fermato io, mi sono trovato vivo ma potevo essere tagliato a metà. Decido così quale albero abbattere e in quale direzione farlo cadere. L'unica cosa che mi crea preoccupazione è la presenza di un grande ramo che abbraccia un faggio lì vicino. Storia di una bomba, di un faggio e di un samurai nero in una puntata che si intitola Il fine delle cose. Benvenuti a Linee d'ombra. Dammi la frusta! Tiri la statuetta! Non perda tempo, forza! Tiri la statuetta, io tiro la frusta! Dammi la frusta! Adios, signor. Questa è la scena iniziale di quel film meraviglioso che era I Predatori dell'Arca Perduta con Harrison Ford, nella parte dell'archeologo di Indiana Jones, ovviamente. Credo fosse il primo della serie di quei film. Abbiamo inserito questo pezzo perché è proprio il rocambolesco tentativo di recuperare questa statuetta che viene citata dall'altro protagonista di questa scena, che è un tizio che lo sta aiutando a raggiungere questo luogo remoto dove recupererà una statuetta d'oro importantissima. È proprio solo l'inizio, poi tutto quanto verterà sull'arca perduta e appunto tutto il film ha a che fare con quell'arca, con il fine che quell'arca e con il valore che quell'arca ha per l'umanità, per tutti gli esseri umani, con la sua ricerca continua. Si chiama Il fine delle cose, la puntata di oggi, e vi raccontiamo diverse storie a questo proposito. Cominciamo con una storia ambientata nel secondo dopoguerra. Siamo sulle Alpi Apuane, ci sono quattro ragazzini che stanno raccogliendo del ferro e a un certo punto trovano una granata. È una cosa che succedeva molto spesso, soprattutto sulle montagne, soprattutto in quegli anni tra il 1948 e gli anni 60. Adesso fortunatamente non se ne trovano più molte e scopriremo che cosa accade. E poi andremo invece in un paesino sull'altipiano di Asiago, dove un uomo a un certo punto, un bel giorno, decide di uscire e abbattere una pianta, una delle sue piante, perché deve fare legna per il fuoco, per la sua stufa. È solo che calcola male lo spazio e il tempo, e appunto staremo con lui per scoprire che cosa accade. Poi andiamo con la nostra storia, quella che recuperiamo dovunque ci sono storie da raccontare. Si tratta di un documentario dal titolo molto chiaro Black Samurai, dove si racconta la storia di quest'uomo che sembra uscito da Karate Kid. È un samurai nero che vive in Africa e aiuta i bambini africani albini, che come sapete sono considerati demoniaci, sono considerati maligni, e però per motivi che sono diametralmente opposti, le loro ossa valgono tantissimo, insomma rischiano la vita. E quest'uomo, che è un samurai di fatto, così viene chiamato, è un insegnante di karate, insegna il karate ai bambini albini. Un bel gruppetto di storie, per chiudere poi con la storia della nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco, sempre qui a Linee d'ombra. Questo episodio mi è accaduto tanti anni fa, esattamente il 18 novembre 1958. Abitavo in un paesino di appena 200 abitanti ai piedi delle Alpi Apuane, di nome Nicola. Eravamo 5 alunni della quinta classe elementare, tutti amici per la pelle. Luciano, Giuseppe, Renzo, Adelmo e io, che a scuola e nei giochi primeggiavo su tutti gli altri. Il nostro territorio in tempo di guerra fu attraversato dalla linea gotica e divenne teatro di battaglie tra tedeschi e americani. Nel dopoguerra continuavano a venire alla luce mine, bombe, bossoli inesplosi che avevano provocato parecchie vittime. Nella nostra classe a scuola c'era un grande cartellone con vignette colorate esplicative che invitavano a non raccogliere oggetti inesplosi, e per questo la nostra maestra ci metteva molto in guardia. Allora noi ragazzi, per racimolare qualche soldo, andavamo nei fossati ai piedi delle mura del paese per cercare dei rottami di ferro, vecchie pentole d'alluminio o di rame da rivendere allo stracciventolo. Quel pomeriggio del 18 novembre, Adelmo trovò ai piedi di una pianta, ben scoperta, non infossata, una bomba a mano del tipo SRCM. Non era arrugginita, ma praticamente era nuova. Forse gettata da qualcuno che voleva sbarazzarsene. Dissi subito ad Adelmo di consegnarmela, perché ero sicuro di poter togliere la cuffia di protezione e svitarla per recuperare l'esplosivo che era all'interno e poi vendere il materiale ferroso. Avremmo diviso, come sempre, il guadagno. Adelmo nel gruppo era sempre stato la schiappa, andava male a scuola, a pallone non sapeva giocare, con la fionda non c'entrava mai un bersaglio. L'avere trovato quel reperto fu per lui motivo di riscatto e si sentì importante. Mi consegnò la bomba. Ci mettemmo in cerchio e io, con un coltellino che portavo sempre in tasca, cercai di togliere la cuffia protettiva per poi aprirla nel mezzo. Mentre stavo per iniziare il lavoro, Adelmo ci ripensò, mi strappò di mano l'ordigno e se ne andò. La cosa non ci piacque perché consideravamo il suo un atto di egoismo, visto che evidentemente non voleva dividere con noi quel giocattolo. Ci mettemmo alla sua ricerca per le stradine del paese e non lo trovammo, perché lui si era nascosto nell'uliveto per aprire da solo quella bomba. Ad un certo punto il borgo fu scosso da un colpo fortissimo. La gente uscì in strada per vedere cos'era accaduto. Si trovavano in paese casualmente due agenti della Guardia di Finanza che capirono e subito si diressero verso il luogo dell'esplosione. Tornarono dopo un po', portando a braccia il corpo inerte, straziato e sanguinante di Adelmo. Fu un momento terribile. Noi ragazzi scappammo in casa terrorizzati. Arrivò il maresciallo e dovemmo raccontare del ritrovamento dell'ordigno. Al funerale la maestra volle che fossimo noi, suoi coetanei, a portare la piccola bara. Era il 18 novembre 1958, il giorno che considero la mia seconda nascita, perché Adelmo, morendo, ha salvato me e tutti gli altri. E oggi non sarei qui a raccontare questa storia. E dopo questa storia andiamo più in là con gli anni, andiamo più o meno negli anni 90, siamo sull'altipiano di Asiago, c'è un uomo che un bel giorno esce con la moglie perché va nella sua faggeta a prendere un faggio. I faggi gli servono per fare legna per il camino e per la stufa, ma quello che succede non è solo che fa legna, succede qualcosa di molto di più. Vivo in un solatio paesino dell'altopiano di Asiago, circondato da dolci e percorribili monti ricoperti nella quasi totalità da interminabili boschi, formati da grandiosi abeti e lussureggianti faggi, i quali in autunno assumono magnifici colori che rammentano le opere dei più famosi paesaggisti. Ovunque sono ancora presenti e visibili gli interventi subiti dal territorio in conseguenza delle aspre battaglie che qui si svolsero nella Prima Guerra Mondiale. Io qui vivo fin da bambino, vita sempre all'aperto. e qualche anno dopo il mio matrimonio decido un giorno di recarmi in una mia faggeta vicina alla contrada Brendola, contrada formata da un solo caseggiato. Il faggio infatti è qui molto usato, essendo adatto per il riscaldamento delle nostre abitazioni nel corso del lungo, anche se sempre meno, rigido inverno. Dovendo abbattere un grande faggio, in quel bosco sono tutti grandi faggi, chiedo a mia moglie che mi accompagni, non si sa mai. Decido così quale albero abbattere e in quale direzione farlo cadere. Dopo aver esaminato attentamente gli alberi limitrofi, l'unica cosa che mi crea preoccupazione è la presenza di un grande ramo che abbraccia un faggio vicino. Accendo la motosega, faccio allontanare la moglie a distanza di sicurezza e mi accingo con decisione al taglio. Non so ancora perché, ma molto prima della conclusione del taglio, il grande albero si stacca prematuramente e mi trascina con sé. Sull'altipiano, i proprietari di bosco tagliano i loro faggi per scaldarsi d'inverno, per far legna, sì. Praticamente brucio 100 quintali di legna all'anno, perché la mia caldaia va a legna, naturalmente. Un faggio potrebbe pesarne benissimo 10. Non so quanti secondi siano trascorsi. Io tento inutilmente di liberarmi. Alla fine, l'albero caduto a terra si ferma. Io sono esattamente sotto all'albero, in maniera perpendicolare. Ce l'ho a livello della pancia, peserà una decina di quintali. Fortuna vuole che mi trovavo in un avvallamento del terreno conseguente ad una trincea della Prima Guerra Mondiale, trincea successivamente regolarmente riempita di terra, ma con il passare degli anni la terra si era assestata, creando proprio quella conca sufficiente a permettere alla mia pancia di starci sotto. Tento di liberarmi, ma mi è impossibile. La motosega è poco distante, è ancora accesa. «Franca, passami la motosega!» dico a mia moglie. Lei me lo porta. Io da sotto taglio il faggio prima alla mia destra, poi alla mia sinistra. Esco, mi alzo, non ho nemmeno un graffio. Io di tutta la storia che ci ha mandato Pier Giorgio, che è una storia che appartiene alla categoria salvi per miracolo, direi, però c'è un passaggio che ho amato tantissimo ed è proprio le ultime righe, quando lui dice e scrive nella storia: «Franca, passami la motosega», che è sostanzialmente l'ordine che lui dà alla moglie quando è sotto questo faggio, è sano e salvo e deve semplicemente uscire da lì. Pronto, ciao Pier Giorgio, buongiorno. Ciao, ciao Matteo. Come ciao. Stai Pier Giorgio, tutto bene? Bene, bene, bene, tutto bene. Senti, io voglio partire dal fatto che tu ci dici, quando, insomma, nel pezzo di racconto che fai a voce, che hai bisogno di 100 quintali di legna all'anno per la tua caldaia. Sono tantissimi. E la mia casa è una bifamiliare, quindi scaldo due appartamenti, ma lavoro d'estate. Dico sempre a tutti: non posso sudare d'estate per avere freddo d'inverno. Quindi certamente no, per quale motivo dovreste avere freddo? Ma quindi è un'abitudine sull'altopiano di Asiago avere la casa che va a legna, caldaia. Sì, sì. Premesso che le case sull'altopiano hanno al massimo 100 anni, perché quella prima guerra mondiale sono cadute tutte per terra. Certo, certo. Ecco. Quindi sono giovani. Le case più vecchie, quella dove abitavo io da piccolo, che era stata fatta nel 1921, aveva solo la cucina economica a sud e il caminetto a nord. E okay. Tutto funzionava a legna. quindi il caminetto riscaldava la parte verso nord e la stufa riscaldava la parte a sud della casa. Quindi facile. Ancora adesso in tutti i comuni di Altipiano c'è l'uso di dare, le amministrazioni comunali danno da 10 a 20 quintali all'anno, appunto perché le famiglie possono riscaldarsi durante l'inverno. Ma tu però non te li tagli più tu sti faggi, giusto? Non li taglio più io, mi faccio vendere gli aiutanti più giovani di me. Senti, possiamo dire che sei vivo per miracolo oppure no? Sono vivo solo per miracolo. Ma tua moglie come ha reagito? Cosa vuoi reagire? il lasso è così breve che non fai neanche tempo a pensare a quello che succede. Io ho tentato in tutti i modi di liberarmi da questo albero che pareva legato a me, perché tenti di fare di tutto, e mi sono trovato con l'albero sopra la pancia, un albero da 20 quintali. Ma questa storia tu Pier Giorgio la racconti, l'hai raccontata, oppure te la tieni per te, meglio non raccontarla in giro? Ecco, io sono un tipo che parla il meno possibile, devo farmi violenza quando devo parlare in pubblico, capito? Ti stiamo un po' violentando quindi adesso, Pier Giorgio, in questa telefonata alla radio. Ma tu capisci che io, piuttosto del silenzio, preferisco dire qualche stupidaggine, perché non odio il silenzio. Senti, però so che tu hai fatto un mestiere che in qualche modo ti obbligava a parlare, no? Tu sei laureato in matematica, sei stato un docente. Sì, sono stato docente di matematica e il complimento più grande che ho ricevuto da qualche ex alunna è stato il professore che mi ha fatto amare la matematica. Oh, fantastico. L'hai passato anche a qualche figlio o figlia? La figlia più grande è laureata in matematica e la figlia più piccola non si è laureata in matematica per non copiare dalla sorella più grande, quindi si è dotata a laurearsi in medicina. Senti, adesso sei in pensione, giusto Pier Giorgio? Adesso sono in pensione, ma sono presidente di un asilo nido qui, di un asilo qui ad Asiago. Abbiamo 140 alunni. Ah, e come sta andando la ripresa dopo il Covid? Abbiamo lavorato incessantemente tutta l'estate, perché le circolari arrivavano ogni giorno. Quindi, ma siete riusciti a riaprire? I bambini sono a scuola? Abbiamo avuto 150 presenze durante i mesi di giugno, luglio e agosto, perché qui è un luogo turistico, Asiago, e quindi richiedono di più l'asilo aperto in giugno, luglio e agosto, dove ci sono tutti gli esercizi che lavorano, tutte le famiglie che lavorano, che non... durante i mesi invernali. Ah, ho capito, cioè le persone che lavorano per il turismo sono più felici di poter lasciare i bambini, appunto, è in una estate. Necessità, per fortuna ci hanno lasciato aprire, insomma, ecco. Abbiamo aperto dal 15 giugno a titolo sperimentale, perché una maestra accudiva solo 5 alunni, tutti in classe separati e senza nessuno quindi contatto. Ed è andato tutto bene? È andato tutto bene, per fortuna. Bravissimi, complimenti. Non entrava nessuno tranne noi interni. Sì, il corpo, lo staff, certo. Assolutamente. Pier Giorgio, prima di salutarti io vorrei citare una cosa che tu hai detto ad Anita, che è una citazione di Charlie Chaplin, che dice: sono sempre più convinto che il giorno che hai trascorso più inutilmente è stato quello in cui non hai sorriso nemmeno una volta. È così ancora oggi? Sempre. Pier Giorgio, ti ringrazio molto per la storia e soprattutto per la chiacchierata. Basta tagliare faggi, mi raccomando, fateli mandare dai boscaioli. Va bene. In bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie, ciao, Giorgio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yolks? Or perhaps we're just one of God's little jokes? We're so sad the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Our fate? Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is Ascoltiamo le borse in diretta. Anche voi a casa non tagliate più i faggi, fateli tagliare da chi è capace e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Il karate non è solo uno sport. E in una città africana come Dar es Salaam, dove spesso l'unica legge che vale è quella del più forte, essere in grado di combattere in questo modo viene considerato un superpotere. Il dojo è molto di più di una palestra. In Giappone questa parola significa luogo per la ricerca della via. Per i suoi allievi, Sensei Jerome non è solo un istruttore di arti marziali. Per tutti è il Black Samurai, un supereroe che ha dedicato la sua vita ai più deboli, e in Africa i più deboli fra i deboli sono gli albini, ed è a loro che ha deciso di insegnare la sua arte marziale. In una puntata che si intitola Il fine delle cose, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. L'albinismo è un'anomalia genetica, vuol dire nascere senza melanina, il pigmento che dà il colore alla pelle e la protegge dai raggi ultravioletti. In un paese in cui il sole batte come un martello, questo sarebbe già di per sé un problema, ma non è l'unico. Nell'Africa subsahariana gli albini sono considerati portatori di sfortuna e spesso sono abbandonati dalle loro famiglie, che li considerano una vera e propria maledizione. Secondo credenze locali sono creature magiche e gli amuleti creati con le loro ossa hanno grandi poteri. Per evitare di essere uccisi o mutilati sono costretti a vivere nascosti oppure rinchiusi. Ho conosciuto una bambina albina, racconta Jerome, il Black Samurai, che aveva una sorella, anche lei albina. Una notte sono arrivati degli uomini e l'hanno mutilata davanti alla madre e alla sorella. È esattamente quando ho conosciuto quella bambina che mi sono detto: devo fare qualcosa per loro. Mahmoud è uno degli atleti del dojo di Jerome. Zango e Atumani sono i due figli albini di sua sorella. Alla nascita di Atumani il padre non è riuscito ad accettare di avere ben due figli albini e li ha abbandonati nella notte. Da allora vivono con Mahmoud e la sua famiglia, dove nel frattempo sono arrivate le due gemelline Samira e Munira, anche loro albine. «Ho quattro bambini albini», racconta Mahmoud. «Solo il karate può aiutarli a superare quelli che possono essere i pericoli della strada». Sulle strade ci sono uomini senza scrupoli e qui, in Tanzania, racconta, gli albini corrono rischi enormi, lo sappiamo tutti. Devono studiare il karate per essere liberi, per superare la paura, per essere forti e andare oltre quello che potrà accadere. Ogni anno il dojo di Jerome organizza un torneo a cui possono partecipare gli atleti di tutta l'Africa sudorientale. L'idea è di aiutare i giovani a capire il vero spirito del karate. Il karate non insegna solo le tecniche del combattimento, a calciare, a lanciare i pugni, dice Jerome. È pieno di strumenti e insegnamenti per affrontare la vita. È uno sport capace di trasformare chiunque in una brava persona. Sapere combattere non significa dovere combattere. Ti forma il corpo, ma anche la mente. Ti insegna il controllo e ti porta a trovare la sicurezza. Per questo ho deciso non solo di allenare Zangu e Atuman fisicamente, ma ho voluto anche cercare di dare loro una possibilità concreta di mostrarsi uguali agli altri. Per questo Jerome decide di iscriverli al torneo. La sua intenzione è dare loro una visibilità che permetta l'anno successivo di iscriversi ai campionati mondiali in Giappone. Sai, la cosa positiva è che ora le porte sono aperte. Io ho aspettato 40 anni, 40, per andare in Giappone. E quando ci sono andato, quel posto mi ha colpito davvero molto. Pensavo che fosse come il Sudafrica, che avrei avuto una stanza a parte, una stanza solo per i neri. Non pensavo che mi avrebbero insegnato insieme ai bianchi. Invece è andata così. Eravamo sullo stesso tappeto. Perché i giapponesi insegnano a chiunque si presenti lì, sì, davanti a loro. Non dicono: sei nero, mettiti da un'altra parte. Loro mi hanno aperto la mente. Andare in Giappone ha cambiato radicalmente la mia vita e il mio modo di pensare. Ma per allenarsi i due ragazzi hanno bisogno di creme solari che Mahmoud non può permettersi. Così Jerome organizza una colletta nel dojo per comprare delle protezioni per la loro pelle. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart But put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound. Zungu a 12 anni è il più grande dei due fratelli albini. Non è mai aggressivo. Gli piace studiare, osservare il mondo per capire il funzionamento delle cose. Se potesse scegliere, probabilmente passerebbe il suo tempo davanti a un computer o a un libro e non indossando un kimono. Lui però non può scegliere. Per gli stregoni il suo corpo può valere migliaia di dollari e le persone che abitano nel suo quartiere faticano a guadagnare 10 dollari alla settimana. La famiglia di Mahmoud vive in due stanze, le porte non hanno serrature e tutti nel quartiere sanno che in quella casa vivono dei ragazzi albini. Per questo si allena con Jérôme. Intanto il torneo di karate di tutta l'Africa sudorientale si avvicina. Jérôme, anche grazie all'aiuto del suo anziano maestro, riesce ad invitare anche degli ospiti dal Giappone e sarà l'occasione per mostrare anche a loro i progressi di Zungu e Atumani. Mahmoud, intanto, che non può permettersi creme protettiva, porta al mare i nipoti sperando che l'acqua di mare asciughi le ferite della loro pelle delicatissima. Un mese prima dell'inizio del torneo, Jérôme decide di accettare i due ragazzi albini all'interno del dojo, nell'allenamento insieme agli adulti. Questa nuova prospettiva cambia qualcosa nella testa di Zungu e i risultati si vedono. Più il torneo si avvicina, più cresce la sua determinazione. Alla conferenza stampa del torneo si capisce che l'evento è di quelli importanti. Il torneo sarà trasmesso in diretta nazionale. È l'occasione che Jérôme aspettava per mostrare a tutta la Tanzania che gli albini sono persone come gli altri. Per Zungu è una situazione completamente nuova. Fino a qualche mese fa non avrebbe mai immaginato di poter parlare in TV e concedere dei selfie ai compagni. È il momento che aspetta da mesi. Se tutto andrà come nei piani di Jérôme, potrebbe ricevere un invito per andare in Giappone l'anno successivo. Ma quando tutto sembra pronto, accade qualcosa di inaspettato. I minuti passano e il torneo non ricomincia. Qualcosa non sta andando nel verso giusto. Gli ospiti giapponesi chiedono di parlare con Zungu, ma il traduttore sullo smartphone non riesce a spiegare che le ferite causate dal sole che ha sulle braccia sono giudicate incompatibili con l'attività agonistica. Potrebbero sanguinare, creando problemi agli altri partecipanti. Tocca al vecchio maestro di Jérôme spiegare a Zungu che non potrà partecipare al torneo. Per Zungu il colpo è durissimo, è poco più di un bambino e non gli resta che scappare nello spogliatoio e lasciare fluire le lacrime. Mi sono preparato per vincere, mi sono allenato per moltissimo tempo insieme a mio fratello e adesso spero di riuscire a vincere il torneo. Perché hai scelto il karate? Il karate lo pratico per imparare a difendermi nel modo giusto. È importante per noi che abbiamo la pelle così essere in grado di sapersi difendere perché essere albino ti fa correre dei rischi. Per questo mi sono avvicinato al karate e ho deciso di partecipare a questo torneo. Che cosa speri per il tuo futuro? Il mio sogno è quello di diventare come Sensei Jérôme. Un proverbio giapponese dice: cadi 7 volte e rialzati 8. Il maestro Funakoshi, il fondatore dello stile Shotokan, ha detto che lo scopo ultimo del karate non si trova nella vittoria o nella sconfitta, ma nella perfezione del carattere dei partecipanti. Un mese dopo la terribile delusione, Zungu è di nuovo in palestra, in compagnia di Jérôme, di suo fratello Atuman e dello zio Mahmoud. Non importa quanto tempo sarà necessario, ma il sogno di andare a combattere in Giappone è solo rimandato. an overweight karate kid, you could moonwalk over my heart using candor as painkiller. Tastes like vanilla to me. Occasionally, someone please make me go home. The worst at being alone. Just tell me I ought to watch infomercials for love and buy all of their trust. Questa è una bellissima storia che Mauro Pesce ha trovato in un documentario che si chiama Black Samurai. È un documentario il cui regista invece si chiama Luigi Maria Perotti. Se per caso avete voglia di vederlo, se avete voglia di vedere le facce dei protagonisti di questa storia e vedere anche come lavorano, come combattono e anche il colore della loro pelle che dà così tanti problemi alle loro vite, alle loro esistenze, potete andare a cercarlo. Black Samurai, sicuramente trovate qualcosa e non è da escludere che troviate anche tutto il film. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. C'è nei racconti di Antonio Cocco, il giovane legionario di cui vi stiamo raccontando la storia seriale che Mauro Pesce ha raccolto grazie alla sua famiglia, grazie all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, c'è una cosa che torna costantemente, quasi in maniera ossessiva, ed è la marcia. Le marce, quelle a cui questi giovani uomini sono costretti in maniera forzata per ore e ore sotto il sole o sotto la pioggia, di giorno, di notte, al caldo, al freddo, con chili e chili sulle spalle, fino a 25-30 chili sulle spalle. Non è evidentemente facile da comprendere questo aspetto. Noi siamo abituati a camminare per spostarci, siamo abituati anche ad essere tornati a concepire il cammino come mezzo di svago, come mezzo di vacanza, no? Oppure una forma trascendente per andare oltre la nostra quotidianità, camminare da soli, fare per chi li può fare, per chi ha la forza per farli e il tempo per farli, fare i cammini, Santiago o la via Francigena e così via. Insomma, abbiamo recuperato negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, il senso del camminare come un senso quasi metafisico, appunto. Ecco, qui invece c'è un senso che è puramente fisico, di sofferenza e di dolore. Le marce sono un aspetto che Antonio Cocco in questa storia racconta in maniera molto cruda, quasi a voler fare arrivare a casa, fino a Venezia, dall'Algeria dove si trova a fare ancora di fatto addestramento per la legione straniera, fino ad arrivare davvero il suo sudore, davvero l'odore di quelle marce, la fatica e le notti insonni passate, perché mentre marciavano erano obbligati a tenere un occhio aperto per vedere se i nemici o se dei finti nemici poteva attaccarli. In questa lettera che manda il padre c'è esattamente tutto questo, cioè c'è quella sensazione di aver varcato una linea di confine qualche mese prima dalla quale non può tornare indietro e davanti a sé deve solo marciare, marciare, marciare. Saida, caro papà, t'avevo nella lettera di ieri promesso di spiegarti cosa sia marcire per 3 giorni di fila e l'avventura della prigione. Il pomeriggio del 31 ero appena sortito dalla prigione. Ci hanno dato lo zaino con dentro tela per tende, picchetti, una coperta, camicie e altre cose come pentole e bidoni, un picco e un badiletto, l'eterna borraccia di sabbia e un piccolo tascapane da agganciare alla cintura per metterci la gavetta, il sapone e l'asciugamano. Ci hanno poi diviso in 2 compagnie, l'una con il chepi bianco e l'altro celeste e nero. Hanno poi chiamato 2 éclaireurs, 2 esploratori per compagnia, fra i quali c'ero io per mia somma disgrazia, e ci hanno dato un fucile mitragliatore da 10 kg con 50 colpi a salve. La compagnia col chepi nero è partita coi camion 1 ora prima per appostarsi, essendo essa il nostro nemico, lungo la strada e tenderci un'imboscata. Il compito di noi esploratori era quello d'essere sempre in testa alla compagnia, correre su e giù, guardare se dove camminavamo era minato e se c'era il nemico nascosto. Siamo partiti alle 4 e alle 11 di sera eravamo ancora in cammino, stanchi morti, con i piedi che dolevano e gli occhi che cadevano dal sonno. Non so se tu abbia l'idea di che cosa voglia dire marciare per 7 ore consecutive con 25 kg sulle spalle, tra la sabbia, i rovi, badare a tutto ed essere responsabile della direzione e dell'andatura che faceva. Parecchie volte mi sono appoggiato a qualche raro albero perché mi sentivo svenire e perché il cuore mi era salito alla gola. E per fortuna l'altro esploratore ha avvistato il nemico e abbiamo potuto così accerchiarlo. L'abbiamo visto alle 7 circa e abbiamo fatto una di quelle sparatorie fenomenali, l'unica soddisfazione della giornata, per circa mezz'ora. Dopodiché, in marcia ancora. Arrivati nel luogo stabilito, ci hanno dato un po' di brodaglia e di birra e poi ci siamo sdraiati a terra mimetizzati ed equipaggiati perché il nemico poteva attaccarci. Infatti, alle 2, una raffica ci svegliò. Dovemmo riprendere la marcia attraverso una foresta di sterpi e piante grasse di dimensioni immense. Alle 7 ci siamo fermati in un torrente, dissetati, e abbiamo bevuto un po' di latte in scatola con un po' di pane. Alle 8 eravamo ancora in marcia fino alle 11. Qui avevamo una mezza ribellione perché nessuno voleva più camminare. Tutti i nostri piedi sanguinavano e le gambe non reggevano. Tuttavia, alle 3:30 eravamo ancora in piedi. Scavalcammo due montagne. Nel frattempo si era messo a piovere. E alle 7, in mezzo alla pioggia, abbiamo dovuto farci da mangiare. Solo la fame che mi faceva morire mi ha costretto a buttar giù cipolle e pomodori crudi, patate cotte, pane crudo, un po' di marmellata e gavette inzuppate d'acqua. Ci siamo avvolti nella coperta e in un telo da tenda e in mezzo alla pioggia e al fango, tutti sozzi e bagnati, abbiamo dormito. Mi sembra ancora di vedermi, tutto bagnato, rannicchiato in una coperta lurida, sotto la pioggia, con i piedi che mi dolevano e intirizzito dal freddo. Infatti qui di giorno fa caldo e di notte fa freddo, specie in montagna. Eppure non so chi mi abbia dato tanta forza, ma anche il giorno dopo sono riuscito a trascinarmi avanti per fare 10 ore di marcia e avvistare il nemico e 4 mine. Se Dio ha voluto, più morto che vivo, la sera del 1° luglio ho messo piede in caserma. Time will heal those broken eyes, fashion your face from your disguise. And love never held that lonely heart, the world a hostile city from the start. And no one's telling yours this dream, you're a tigress with your wild dreams, is true. And the leaden sky's drawn in, but all of mountains. Stars align, I'm sure. You wish with your circles in the sand, and now your hope's horizons are at hand. A light against the darkened sky, and your truth must outshine all the lies you've seen. But from the outside looking in, say, I'll move mountains. Grazie ancora a Mauro Pecio che raccoglie la storia per noi, grazie ad Anita Panizza, a Paolo Corleoni, a Luca Micheli che fanno Linee d'Ombra, che fanno questo programma. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.